sole scende sul mare, la notte comincia a cantare, luci di Napoli accese, tutte le preoccupazioni son prese. From Milano a Roma città, la dolce vita torna qua, gente che ride, che balla sotto la luna che brilla, e il ritmo del cuore batte forte, portando gioie di ogni sorte. La notte italiana chiama, accendendo ogni fiamma. Notte italiana. Cheese.